voglio leggere un breve brano di una guarigione che Gesù fa. In Luca 17, dal versetto 11, noi leggiamo che nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Tutti e 10 furono guariti, perché Dio è un Dio potente. Amen, lo possiamo dire insieme: Dio è potente, la sua potenza non è limitata. Questa è una guarigione di gruppo, no? Nei Vangeli solitamente leggiamo delle guarigioni singole che Gesù fa, ovviamente ne faceva decine, a centinaia, qui ne guarisce 10, tutti insieme, una guarigione di gruppo, e non ha neanche la necessità di toccarli, di fare una preghiera, di confessare qualcosa, no, semplicemente li porta ad un'azione di fede. Andate già verso i sacerdoti, andate già nella direzione di quel rituale che riguardava coloro che erano guariti dalla lebbra, perché chi era guarito dalla lebbra poi si presentava al sacerdote. E quindi Gesù dice a loro: andate ai sacerdoti per farvi mostrare, loro verificheranno che sarete guariti. Questo è quello che Gesù sta dicendo, e questi 10 lebbrosi si mobilitano e nel loro passo di fede vengono tutti e 10 guariti. Non è bello? Dio è potente, Gesù guarisce, e in riunioni come questa di stamattina Gesù non sceglie di guarire una sola persona, sceglie di guarire ognuno di noi che ha fede. Amen. Non è limitata la sua potenza. Lui vede il tuo bisogno, lui vede la tua necessità. La necessità del tuo fratello e della tua sorella non è superiore alla tua o più importante della tua o qualcosa che Dio non darà importanza perché darà importanza e non darà importanza a te. Dio non fa scelte, favoritismi. Dio ascolta le preghiere di ognuno di noi, vede i bisogni di ciascuno di noi e ha cura di noi. Amen. La storia va avanti. Versetto 15, leggiamo: uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù, con la faccia a terra, ringraziandolo. Ripetete con me quest'ultima parola: ringraziandolo. Gesù è meritevole di gratitudine. Gesù merita il nostro ringraziamento. Ora, questo era un samaritano, quindi non era parte del popolo di Israele. E poi quindi Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Non è che lo domanda perché aveva dubbi Gesù, non è che lo domanda perché si chiedeva forse non sono stato bravo abbastanza, no, si chiede questa, si fa questa domanda proprio perché è sorpreso del fatto che dei 10 solo uno torna a glorificarlo ad alta voce, con la faccia a terra, ringraziandolo. Dove sono gli altri 9? Gesù continua a fare questa domanda: dove sono gli altri 9? Dove sono gli altri 9? Io spero che tu non faccia parte dei 9. Io spero che tu questa mattina possa afferrare questo messaggio. Il mio messaggio questa mattina è: sii grato, sii un adoratore, sii pieno di gratitudine nella tua vita. Non essere uno dei 9. Chi sono i 9? Sono guariti, sono persone che hanno ricevuto un beneficio da parte di Dio, però non gli danno il merito, non riconoscono questo merito e sono poi orientati a continuare a vivere la loro vita. Quanto spesso noi abbiamo delle risposte da parte di Dio, a delle preghiere che facciamo, e per qualche strana ragione, per distrazione, per superficialità o perché siamo così razionali nel nostro modo di pensare, poi tralasciamo il fatto che è un esaudimento alla nostra preghiera, che quello che abbiamo ottenuto è effettivamente un beneficio da parte di Dio. Quante volte noi chiediamo preghiera alla Chiesa per una visita medica, per un intervento, per qualcosa che deve accadere in un ospedale, poi arriviamo lì e il medico dice no, nulla di fatto, non è niente di grave, nulla di preoccupante, e ascoltiamo la voce del medico e riteniamo che non sia stato mai nulla di grave, riteniamo che non ci sia stato mai nulla perché diamo più fede alla risposta del medico che al credere che Dio nel frattempo è intervenuto, che la preghiera della Chiesa ha avuto efficacia e che noi abbiamo ottenuto un miracolo, un intervento divino. Quanti possono ammettere che sono un po' distratti da questo punto di vista? Quanti possono ammettere che alle richieste di preghiera non sempre corrispondono un egual numero di ringraziamenti alle preghiere fatte? E questo non perché Dio non risponde, ma perché siamo come i nove, continuiamo a camminare nel nostro percorso. Ora, il messaggio di questa mattina è proprio in virtù dell'anno che ci sta alle spalle e dell'anno che ci sta davanti per far nostro quello che è il giusto atteggiamento di credenti nati di nuovo che hanno una relazione con Dio. Il giusto atteggiamento di credenti nati di nuovo che hanno una relazione con Dio è un atteggiamento di gratitudine sempre, in ogni stagione e in ogni circostanza. Amen? La gratitudine deve essere la nostra caratteristica ed è quello che vogliamo vivere oggi. Gesù continua e dice: non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero? E gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Vedete, Gesù elogia quando c'è adorazione. Gesù nota quando c'è gratitudine nel nostro cuore. Gesù è a favore di quello che può essere un nostro atteggiamento di gratitudine. Infatti, io voglio darvi 4 buone ragioni per le quali essere grati. Volete ascoltarle? La prima è che l'attitudine della gratitudine onora Dio. Onora Dio. Vuoi onorare Dio con la tua vita? Sii grato. Vedete, in Romani 1 c'è questa descrizione, lunga descrizione della società nella quale noi viviamo, una società che vive nel peccato, una società che ha scelto il peccato, che ha abbandonato Dio. E c'è una cosa particolare, mi piace quello che c'è scritto in Romani 1 versetto 21: pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Perché mi piace questa descrizione? Perché mette in chiaro proprio che chi non crede in Cristo, che chi non ha una relazione con Cristo, è un ingrato. C'è scritto: non l'hanno ringraziato. E perché ritengo che sia così prezioso questa rivelazione? Lo ritengo preziosa perché noi dobbiamo comprendere che l'ingratitudine non è qualcosa di superficiale. L'ingratitudine nella nostra vita è uno strumento nelle mani del nemico per distruggere le nostre giornate, per privarci della gioia di Dio e per riportarci ad una condizione di persone che non credono. Se credi in Dio, sei grato, perché tu eri un lebbroso e Gesù ti ha toccato e ti ha sanato, salvato e accolto a sé. Tu hai 1000 ragioni per le quali essere grato. Tu hai la salvezza eterna, tu hai la grazia di Cristo, Gesù è morto per te, i tuoi peccati sono puliti, tu hai una promessa dell'eternità, avrai un'eternità con Lui, e puoi essere grato del sole che splende, della provvidenza nella tua vita, del tuo matrimonio, della tua famiglia, di come Dio tocca, di come Dio agisce, perché Dio è ovunque, ovunque c'è del bene nella tua vita, lì c'è Dio. Amen? Sei grato? Vogliamo fare un applauso al Signore, perché il Signore merita la nostra gratitudine per l'anno che c'è stato, per l'anno in corso e per gli anni a venire. Sempre, comunque, in ogni circostanza. E lo voglio gridare contro ogni notiziario, contro ogni guerra, contro ogni pandemia, contro ogni cattiva notizia, contro ogni crisi economica, contro ogni situazione negativa che ci sta attorno. Noi siamo un popolo grato, perché Dio è buono, Lui è sempre buono e merita la gloria e l'onore nostro in questo nuovo anno. Dichiara guerra all'ingratitudine nella tua vita. Dichiara guerra. Sii violento contro l'ingratitudine. Una seconda ragione per la quale è giusto ed è opportuno essere grati è perché questo ti dà una prospettiva della realtà. Vedete, il diavolo è un bugiardo e ci vuole portare sempre ad avere una prospettiva falsata delle cose. Vi ricordate la storia in Numeri capitolo 13 e 14 delle 12 spie? Vi ricordate che cosa accade in quell'occasione? 12 spie vanno a perlustrare una terra che è la terra esattamente promessa da Dio, esattamente come Dio l'ha descritta, e 10 di queste spie vedono i giganti, vedono la battaglia, vedono l'impossibilità, vedono che non è esattamente come se l'aspettavano, vedono che è tutto così grande, negativo, pessimo, e in questa prospettiva perdono l'accesso a quella che è la benedizione che Dio ha per le loro vite. Se tu vuoi una vita benedetta, devi avere la giusta prospettiva delle cose. Se tu vedi solo giganti, mostri, combattimenti, impossibilità, già ti stai tirando indietro in quelle che sono invece le possibilità che Dio ti dà. E Dio ti dà delle possibilità e delle conquiste proprio quando sei davanti ai giganti. Non vedere i giganti come una cosa che ti deve frenare, bloccare, far indietreggiare, perché proprio quando vedi il gigante davanti alla tua vita, lì c'è un'opportunità di conquista, perché è sempre stato così nella parola di Dio. Davide, a contrario dell'intero popolo di Israele, quando ha visto il gigante, ha visto la sua opportunità di fare del bene all'intero popolo ed entrare in un'azione da re. Re quale lui era, unto da Dio. Tu sei un re, tu sei un conquistatore, Dio ha il meglio per te, davanti a te c'è il meglio, perché Dio ha stabilito ogni cosa nella tua vita e lui ti ha chiamato, ti ha creato per le opere buone precedentemente preparate. Non c'è un'avversità nella società che può impedire il piano che Dio ha stabilito per te, perché il piano che lui ha stabilito è già stabilito. Lo devi afferrare però per fede e non farti bloccare dai giganti. E i giganti ci portano ad essere pessimisti, negativi, ad avere paura, a bloccarci e a non conquistare. Sii un conquistatore. E come assumi un'attitudine di conquistatore? Avendo gratitudine. Avendo gratitudine. Caleb, Giosuè, no, è esattamente come l'ha descritto Dio questo paese. Effettivamente scorre il latte e miele. Effettivamente è prospero. Hanno avuto una visuale verso le cose positive. È un anno meraviglioso quello che ci sta davanti. È un anno benedetto quello che ci sta davanti. Sapete perché è benedetto? Perché Dio è con noi. Perché Lui ha stabilito quest'anno. Se sei vivo e respiri, è perché Lui ha qualcosa da farti fare, qualcosa da conquistare, qualcosa da vincere, qualcosa da offrire nell'avanzamento del suo regno. Quindi perché dico ti offre la giusta prospettiva di vita? Perché ti fa vedere esattamente tutto com'è. La prospettiva negativa, quella che deriva dall'ingratitudine, ci mostra solo una versione dei fatti. Ci fa vedere solo il bicchiere mezzo vuoto. C'è qualcuno che mi sta seguendo? E non vedi che c'è dell'acqua nel bicchiere, no, vedi il vuoto. E quindi rimani a bocca asciutta. Perché? perché è mezzo vuoto e sei concentrato sul vuoto, sul nulla, sul... invece guarda il pieno, riconosci il pieno, sii grato per il pieno, perché quando lo vedi, quando lo riconosci, quando sei grato, quel pieno si moltiplica, il bicchiere si riempie e travasa. Abbi una giusta prospettiva delle cose. Non è tutto così negativo. Io lo so che ai notiziari continuamente ci dicono che le tasse sono più alte, che c'è una crisi economica, che... e io più ascolto queste notizie e più mi sembra di dover pregare affinché possa avere un pasto davanti a me per mangiare, non rimanere povero, senza cibo. E poi arrivano le festività, abbiamo tutti mangiato abbondantemente, mi sa. Vi vedo tutti molto in salute. Non vedo degli affamati, eppure la prospettiva qual è? Che siamo poveri, siamo sempre più poveri e ci manca tutto ed è tutto più costoso. Sii grato, perché quello che hai ce l'ha solo una piccola percentuale di popolazione in questo mondo. Una piccola, piccolissima percentuale di questo mondo vive nel benessere, nell'abbondanza, nei piatti caldi, nei frigoriferi pieni che noi abbiamo. E che cosa guardiamo noi? Il notiziario che ci dice che le borse scendono. Ma chi se ne frega che scendono queste borse? Dio è la nostra provvidenza. Noi stiamo bene, viviamo nell'abbondanza e in questa abbondanza abbiamo l'opportunità di dare, di essere generosi e aiutare chi manca. Quanto è triste pensare che siamo così poveri che non possiamo più aiutare chi è veramente povero, perché qualcuno ci sta facendo credere che siamo poveri noi. No, tu sei ricco e nella tua ricchezza puoi benedire chi è povero. Amen. Seconda ragione, ti dà una buona prospettiva della vita, una reale prospettiva della vita. Terza ragione, alimenta la fede. Quando tu sei positivo, quando tu ringrazi, in te cresce la fede. Quando tu guardi al 2022 e dici il Signore ha provveduto a me, ho avuto un lavoro, tu hai fede nel credere che Dio continuerà a provvedere a te. Il Signore mi ha liberato, mi ha guarito. Vi ricordate Davide proprio davanti al gigante? Lui dice, il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e mi liberò dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. La forza di Davide era riconoscere le vittorie avute e il merito che andava attribuito a Dio di quelle vittorie. Riconosci, sii grato a Dio, perché questo alimenta te di fede per battaglie superiori. Vedete la successione? Leone, orso, filisteo, gigante filisteo. Il Signore ti chiama da una battaglia piccola, quella del leone, a una battaglia più grande, quella dell'orso, a una battaglia con il gigante. Però per avere una fede che è crescente devi riconoscere le battaglie già vissute, già vinte, perché lo stesso Dio che ti ha fatto vincere in passato ti dà ora forza e fede per vincere in futuro le battaglie più grandi che ti stanno davanti. Alimenta la fede. Quarto, è il quarto, sono arrivato al quarto, sì. Produce purezza. Ascoltate questi versi, Colossesi 3. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ripetete con me, siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Vedete, due volte in questo elenco che ci invita alla santità ci viene presentata la gratitudine. La gratitudine, l'essere grato, l'essere pieno di riconoscenza a Dio per le buone cose che Lui ci fa. Abbiamo cantato prima, per ogni cosa che fai ti diamo gloria. Non deve essere solo un canto, deve essere il nostro motto quotidiano. Ogni cosa che Lui fa merita gloria a Lui, merita adorazione, merita il nostro canto. Quindi perché? Quarto punto, dovremmo essere grati perché questo produce purezza. Gesù era grato. Gesù era grato, era continuamente grato. Era grato a Dio nonostante la sua vita prevedeva la morte e il sacrificio ultimo. Lui era grato a Dio per le sue giornate. Lui era grato e ha insegnato la gratitudine. E Lui ha elogiato coloro che erano grati dei benefici che ottenevano mediante il suo intervento. Torno a ripetere, non essere uno dei nuovi, sì il lebbroso guarito che torna a Dio con lode, adorazione e ringraziamento. Amen. Queste sono le quattro ragioni per vivere un buon anno, un anno che è benedetto, un anno che ci permette di distinguerci dal mondo che ci circonda. E la pressione dell'ingratitudine, la pressione della lamentela è forte e noi a volte ci ritroviamo a fare da eco. Non so se vi è mai capitato di aver detto delle cose, di lamentarvi, di borbottare, poi di aver pensato, ho detto, ma queste non sono le mie parole, questa non è la mia espressione. Perché sto parlando così? Semplicemente perché facciamo da eco, perché lo sentiamo così tante volte fatto attorno a noi, che ci viene spontaneo e naturale emulare questo esempio, ma non farlo. Liberati dell'ingratitudine. C'è un quinto motivo per il quale non essere ingrato. Il quinto motivo per il quale non essere ingrato è perché chi è ingrato è noioso. È vero? Chi è ingrato è noioso, è pesante. Vuoi amici? Sii grato. Perché chi è grato attira amici, attira persone. Quando pensi, no, dobbiamo uscire con quella persona, oh, sarà una serata difficile. Perché mi farà l'elenco di tutte le cose che vanno male nel mondo, in Italia, in Puglia, a Bari, nella provincia, nella sua vita, nella vita del vicino, del condominio. E sarò così pieno di tutta questa ingratitudine e pesantezza che avrò bisogno di tornare in chiesa, adorare con Noemi e Michael per 10 volte per riprendermi. Sii grato perché la tua gratitudine sprigiona gioia e ti permette di mettere la tua vita in una condizione relazionale sana. Attirerai persone. E io vedo persone grate davanti a me. Io amo la Chiesa perché è un posto di gratitudine. Io amo questa Chiesa perché ha imparato il segreto della gratitudine. Io amo essere in mezzo a voi, insieme come Chiesa, come famiglia, perché sappiamo ringraziare. E il ringraziamento fa così bene. Sii grato a Dio. Esprimi la tua gratitudine e fallo anche nei confronti degli altri, fa così bene. È vero, il tuo fratello, la tua sorella ne ha di difetti, io ne ho di difetti, però una cosa buona ce l'abbiamo tutti. Alimenta gratitudine per quella cosa buona che vedi nel tuo fratello, nella tua sorella. Questo crea un contesto, un'atmosfera sana, salubre, ed è piacevole stare insieme a persone che sono grate. Quindi non essere noioso. Amen. Non siamo noiosi noi, vero? Noi della Pieno Vangelo siamo belle persone con le quali è bello stare insieme perché sono continuamente grate a Dio. Alleluia. Amen. Quindi vogliamo alzarci in piedi. E per quanto sia un esercizio molto semplice, io credo qualcosa che già hai fatto ripetute volte, io voglio invitare ciascuno di noi a esprimere la propria gratitudine attraverso proprio delle frasi che possiamo scrivere. È così bello vedere che questo lebbroso non è stato timido nell'esprimere la sua gratitudine a Dio. Ha urlato, si è buttato faccia a terra, davanti a tutti. La gratitudine sincera non è timida, non è contenuta, La gratitudine sincera è quella che viene espressa con libertà. Io voglio invitare ciascuno di noi a esprimere con libertà gratitudine. Ci sono due bidoncini al lato sinistro della sala e destro, con dei foglietti e delle penne. E io vorrei che mentre cantiamo questo brano insieme, possiamo andare in quelle due postazioni e scrivere una ragione, non mille ragioni, avremo altre occasioni per scrivere tante altre ragioni, una ragione per la quale siamo grati a Dio. Vogliamo raccogliere poi tutti questi bigliettini e domenica prossima metteremo in mostra, perché vogliamo leggere, no? Le mille ragioni per le quali la Chiesa di Modugno è grata a Dio. Quindi pensa in questo momento a una ragione per la quale, o un paio di ragioni per le quali sei grato a Dio, e poi non appena inizia il brano possiamo muoverci, andare nelle due postazioni, scrivere il bigliettino con magari dicendo sono grato a Dio per o grazie Gesù per, e lasciare il bigliettino lì. È un semplice esercizio, però io non vorrei che sia sottovalutato. Io vorrei che non sia qualcosa, oh che bello che abbiamo fatto questa cosa. Perché quello che stai facendo adesso è dichiarare guerra al nemico, è dichiarare guerra a colui che vuole mettere ingratitudine nel tuo cuore, dire no, io scelgo di vivere una vita grata, grata a Dio. Amen? Lo vogliamo fare insieme? Allora adoriamo il Signore e scriviamo il nostro motivo di gratitudine, poi andremo avanti anche con la cena del Signore.